Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Alma 101.9, mentre sono le 21.01 e voi siete in compagnia di Rosanna e, ripeti, Anna Maria. Anna Maria. Ciao Anna Maria, non ti avevo sollevato il microfono. Ah, non si fanno queste cose. Come stai? Sto bene, e tu Rosanna? Non ci siamo viste per un po'? Sì. Allora, non ci siamo viste per un po', io nel frattempo ho fatto qualche viaggetto di lavoro, anche negli Stati Uniti, e insomma adesso siamo ritornate... Poi ci racconti, vogliamo sapere tutto. Siamo ritornate alla base e quindi possiamo riprendere le nostre attività radiofoniche, in particolare la trasmissione I colori dell'anima, che va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, stasera con noi ci sono due ospiti. Un primo ospite che possiamo definire un assistente alla regia, che si chiama Jacopo. Buonasera. Allora, Jacopo, il mio nipotino che è venuto a trovarmi e quindi adesso mi vuole assistere con la regia, quindi se sentite qualche rumoraccio, insomma, non vi meravigliate. O se non sentite più nulla. E poi l'altro ospite invece è Francesco. Buonasera a tutti. E Francesco invece... Come? Speravo invece di essere definito ospite, magari in un eventuale protagonista, però va bene, mi accontento lo stesso. Guarda che grazie. Gli ospiti sono sempre protagonisti, vero Anna Maria? Qui assolutamente, siete sempre al primo posto. Bene, bene, grazie. Ok. Allora, dunque stasera parleremo un po' della radio, di Radio Alma, racconteremo un po' qualche così un po' la storia, le trasmissioni, staremo con voi come sempre fino alle 22, mi raccomando rimanete sintonizzati, ma ovviamente ascolterete un po' di musica. E adesso, se riesco, vorrei mandare questo primo brano musicale, vediamo se funziona. Allora, eccoci ritornati in studio con la nostra chiacchierata dopo questo brano musicale e siamo appunto sempre con Anna Maria, che non se n'è andata, giusto? No, io sono qui, faccio parte dell'arredamento. Allora, oggi 7 luglio 2014 abbiamo pensato che, essendo la trasmissione pre-vacanza, perché come sapete probabilmente in agosto Radio Alma chiude i battenti, quindi saremo tutti in vacanza e quindi per me e Anna Maria questa è l'ultima trasmissione prima delle vacanze 2014. Esatto. Allora, proprio perché è l'ultima trasmissione prima delle vacanze, vorremmo fare una trasmissione, diciamo così, un po' più leggera, ma neanche poi tanto, perché siamo qui già da vari anni e probabilmente non tutti conoscono la radio, non sanno, non conoscono le altre trasmissioni e noi stessi magari abbiamo molte lacune, quindi con Anna Maria ci siamo documentati un po', giusto? Abbiamo studiato un pochino. Ecco, abbiamo studiato. Poi vi faremo fare i compiti delle vacanze e a settembre, al ritorno, interroghiamo. Esattamente. Allora, dici un po'. Allora, alcune informazioni su Radio Alma, piccole informazioni. Dunque, intanto questa radio non sembra, ma è nata da tantissimo tempo. Le prime trasmissioni sono state fatte addirittura nel 1978 da un signore, c'è un aneddoto, insomma, non molto felice. Sembra che questa radio fosse l'unico mezzo che questo signore aveva per tenersi in contatto con suo figlio. Parliamo di tantissimi anni fa, quindi probabilmente sarà una storia di emigrazione, anche perché questa radio fondamentalmente è stata creata da persone che sono venute dall'estero, quindi persone di emigrati, che volevano in qualche modo far conoscere la propria cultura, cercare di promuovere la cultura di questi popoli, di queste persone che venivano a lavorare qui a Bruxelles, e quindi principalmente del bacino mediterraneo. Perciò hanno creato questo modo di comunicare non solo alle persone della propria comunità, ma di comunicare un pochino a tutti quelli che vivono a Bruxelles, perché Radio Alma si ascolta soltanto a Bruxelles. Fondamentalmente le trasmissioni sono principalmente in spagnolo, in portoghese, in greco, in italiano e in francese, ovviamente. E questo è un po' l'inizio della radio. Poi diciamo che hanno un pochino più mirato, sono state un pochino più mirate le situazioni particolari, cioè promuovere addirittura le attività culturali, aiutare le persone che avevano delle iniziative a farle conoscere, a farsi non pubblicità, perché questa è una radio che non fa pubblicità, non esiste, no, cioè non è commerciale, non è politica, e non, è principalmente sociale, per far conoscere appunto la cultura dei popoli mediterranei. E quindi ecco come nasce Radio Alma. Allora, io ho anche un altro, così, conosco anche un altro pezzettino di storia, perché nel 1995 io ero già a Bruxelles, c'erano appunto delle persone italiane e in particolare spagnole che cercavano questo spazio per la propria radio, e in quel momento quindi Radio Alma ha preso la frequenza che ha oggi, 101.9, però insieme a Radio Alma la stessa frequenza è stata assegnata ad un'altra radio che si chiamava Radio Sì. Quindi per vari anni, fino al 2003-2004, non ricordo esattamente, ma per almeno una decina d'anni, diciamo, grosso modo, queste due frequenze si alternavano. Cosa significa? Che per esempio in una giornata da mezzanotte alle 4 di mattina la frequenza era per una radio, e dalle 4 di mattina alle 8 per l'altra radio, e così via. Quindi erano però due radio molto simili, cioè entrambe erano radio mediterranee, entrambe trasmettevano nelle cinque lingue del Mediterraneo, e cioè appunto inglese, come dicevi tu, non inglese, francese, italiano, spagnolo, greco e portoghese. E quindi avevano molte, diciamo, caratteristiche simili, però appunto si dividevano questa frequenza. Poi però appunto è venuta fuori una legge per cui solo una radio poteva occupare una frequenza, e quindi non potevano essere due a dividersi questa radio, e allora è stato fatto, diciamo così, una specie di gara, se vogliamo, tra Radio Sì e Radio Alma, e quindi è stato deciso che Radio Alma dovesse occupare quindi interamente la frequenza, cioè durante le 24 ore, e di conseguenza oggi è solo Radio Alma che occupa questa frequenza. Abbiamo vinto. Come? Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Beh, io ho perso, perché all'epoca parlavo a Radio Sì. Ah, allora sei passata. Però poi sono passata dalla parte dei vincenti. E mio fratello, che è qui, Francesco, è venuto anche a Radio Sì. Giusto? Sì, sì, ricordo molto bene. Ecco, il mio esordio. Il tuo esordio radiofonico. Sì, era sì. Venuto anche Jacopo, se non sbaglio, che però forse era un po' piccolo, non so quanto si ricordi. Era un moccioso, diciamo, come forse quella parola lì lui non la gradisce. Che cosa? Sta già minacciando, moccioso. No, era piccolo, non era moccioso. Comunque, insomma, era una radio così che a me piaceva molto, però appunto c'era questa difficoltà di non poter più condividere la frequenza, e quindi insomma Radio Sì non c'è più, perlomeno non c'è più sulla frequenza 101.9, e quindi c'è soltanto Radio Alma. E insomma noi siamo felici di continuare ad essere insieme a voi, e in particolare di accompagnarvi il lunedì sera dalle 21 alle 22. Allora, io proporrei un altro brano musicale, e chiedo qui al mio assistente di aiutarmi, giusto? Quindi sentiamo un brano musicale, questa volta di Fiorella Mannoia, e ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Allora, eccoci ritornati con la nostra chiacchierata, questa sera dedicata a Radio Alma, con Anna Maria e Rosanna. Sì. Perché non ti chiamiamo abbastanza, secondo no, me, in infatti, radio. È vero, mi chiamo da sola. Allora, dunque, parleremo appunto un po' della storia della radio, e Anna Maria ha già iniziato, ma forse potremmo un po' dire quali sono le trasmissioni, più o meno dire qualcuna delle trasmissioni che vengono trasmesse, appunto, non so, dalle 21 alle 22 noi italiani abbiamo il monopolio. Abbiamo infatti I Colori dell'Anima, che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22. Ci siamo io e Rosanna, e poi ci sono gli altri ragazzi e ragazze. Quindi inauguriamo la settimana della sera. Della sera, esattamente. Quindi iniziamo noi il lunedì, sempre. Così si vede come va il resto della settimana. Poi c'è il martedì sera, c'è Les Goûts des Autres. Sì, e questo lo so perché è condotto da Vito e Paola. Sono due miei amici. Che io non conosco. Sì, però insomma, non conosco sarò tutti gelosa. Gli animatori di Radio Alma, ma loro li conosco. E poi il mercoledì c'è Indovina chi viene a cena. Il giovedì Giro di Boa. Il venerdì c'è questo Fiebre Football, che sinceramente non so cosa sia, ma posso immaginare. Non sembra molto italiano, effettivamente. Non sembra molto italiano, somiglia un po' al football. Immagino che sia uno spazio che sì, è stato dedicato adesso appunto ai mondiali attualmente in corso. Quando ci siamo visti l'ultima volta, l'Italia giocava ancora. Ci pensi, sì. Anna Maria? Sì. Sì. E adesso e non andiamo più neanche tanto fieri, sinceramente, di come ha giocato. Non andiamo molto fieri di quello, infatti, che è successo. Siamo un po' tristi, vabbè. Sì, quindi adesso ci siamo tutti trovati delle squadre da tifare. Io mi ero trovata il Belgio e guarda un po', sono usciti anche loro. Io mi sono presa l'Olanda. Ah vabbè, perché quindi tu stai con i vincenti. Li ho adottati, o forse loro hanno adottato me. Allora, poi abbiamo altre, chiaramente la giornata è completamente coperta, le fasce del mattino sono soprattutto fasce coperte dalla trasmissione spagnolo, sì, che cominciano molto presto, che mi sembra strano, ma alle 6 del mattino addirittura, quindi la fascia della mattina è coperta da dalle 6.30 alle 7, certo. Dalle 6 alle 7, dalle 7 alle 8, insomma, ce n'è dalle 8 e mezza alle 9. Esatto, ce n'è un bel po'. E poi da mezzogiorno all'una, che mi sembra l'orario adatto. E poi abbiamo anche la Grecia. Uh-huh. La Grecia al primo pomeriggio, di solito ci sono, non ve le leggo i titoli di queste trasmissioni, non credo che sarei in grado di capire quello che c'è scritto. E poi infine abbiamo no, e poi ci sono una serie di trasmissioni greche dopo di noi, cioè sì, nella fascia oraria dalle 21 alle 22. Esatto. Quindi tutte le sere, infatti noi quando andiamo via e appunto mandiamo la musica non stop, automaticamente partono delle trasmissioni in lingua greca, che è appunto una delle lingue ovviamente del Mediterraneo. Esattamente, esattamente. E poi ecco, possiamo anche dire che nel corso della settimana ci sono delle repliche, ad esempio, che ne so, tipo alle 3 di notte, insomma non è che c'è molta gente che viene in radio, e quindi alle 3 di notte del lunedì mattina, quindi mattina presto, c'è la replica della trasmissione Metropolis, che è una trasmissione francese, quindi sarà come Metropoli, non so come si dice. E Metropolis? Metropolis, oui. Oppure il mercoledì dall'una di notte fino alle 4 c'è prima Espace D.I. e poi c'è Ciné Vu. E poi sì, insomma, ci sono varie trasmissioni. Questa notte le ascoltiamo tutte. Come? Questa notte le ascoltiamo tutte. Sai, se uno soffre di insonnia, insomma, non ti capita di svegliarti la notte, scusa? Caspita, se mi capita. Sì, sì. Sì, sì. Però di solito faccio di tutto per riaddormentarmi, è difficile che accendo la radio. Perlomeno così sono contenti i miei vicini. Vabbè, ma la metteresti piano, magari con le cuffie? No, senza, certo, cuffie, no. Dubbiamente. Va bene. Comunque, insomma, c'è una, diciamo, una grande attività dei nostri colleghi animatori spagnoli. Effettivamente c'è un grande entusiasmo degli spagnoli per la radio, tanto è vero appunto che loro occupano varie fasce orarie, come diceva Anna Maria, non solo la mattina ma anche a ora di pranzo, e poi naturalmente in vari momenti della giornata. Per esempio, qui vedo il venerdì dalle 18.30 fino alle 19.30. Porque no te callas, sì. Credo che voglia dire perché non taci, qualcosa del genere, non saprei. Perché non taci? Sì, ce lo confermo, che parla perfettamente spagnolo, mi dice di sì, conferma. poi c'è la voz de Charo e poi Fiebre Football. Quindi dalle, sempre questo il venerdì, quindi c'è questa, il tutto comincia alle 18 e va fino alle 20. E poi fanno il Domingos Positivos il sabato, però lo fanno. Domingos, sì, certo, Positivos. Domingos Positivos. Sarà per prepararsi alla domenica, probabilmente. Infatti. E sono infatti tutti spunti che dovremmo prendere. Infatti, sì. Però sì, noi sì, di sì, lunedì è difficile. E comunque, insomma, potete trovare tutte queste informazioni al nostro sito, chiedo scusa, che è... Scusate. http://radioalma.eu. E se poi aggiungete un'altra slash e scrivete i colori dell'anima, andate a finire dove? Nel nostro blog. Nel nostro blog, ma esatto, di questo ve ne parleremo dopo. Allora, prima di ascoltare i Nomadi, vorrei chiedere a Francesco perché ha scelto i Nomadi. Allora, è ovvio che i Nomadi sono, diciamo, è un gruppo mitico che ha fatto un po' della musica italiana quella che si può definire la storia della musica, e in più, non per vanto, ma siccome mi diletto nell'arte della musica, i Nomadi sono tra quelli che io suono, che ho suonato, diciamo, e che quindi sono quelli che più magari di qualcun altro mi hanno fatto vibrare. Mm-hmm. E allora, e cosa suoni? Allora, il mio strumento è il basso. Però ci sono arrivato, diciamo, per gradi, perché ho studiato un po' di musica, ero 14enne e ho fatto tutt'altro, la fisarmonica. Poi, insomma, ho abbandonato. Come nelle buone tradizioni paesane, sì, si studiava la fisarmonica. È vero. Poi crescendo, diciamo, ho messo un po' da parte questa mia passione, e poi è tornato, o forse non è mai andato via, ma comunque io credo che queste passioni non vadano mai via, no, infatti, che rimangano, infatti, sempre, sono rimasti sempre lì, li ho solo temporaneamente messe in stand by, però sono rimaste lì dove erano. Bene. E questo è il motivo, insomma, per cui ho scelto i Nomadi. Vabbè, suona anche la tastiera, magari non meno professionalmente, ma anche quella. Quindi abbiamo un musicista. Giochiamo, ecco. Bene, diverto a fare canta questo. Canta anche un po'? Addirittura. Beh, oddio. Dai, cantaci qualcosa. No, no, è meglio ascoltare. Penso che la musica va bene, fatta dal disco venga un po' meglio in questo momento. Va bene. Ma la mia è tutta invidia. È solo ed esclusivamente invidia, perché io non so suonare neanche le pentole. Però mi sarebbe piaciuto moltissimo. Ma non sono questo paziente. Sembra un punto di partenza molto è fondamentale, avere già dentro la voglia di... Ma la voglia ci sarebbe anche, forse di tanto in tanto l'ispirazione, ma poi magari non riesco a mettere a punto e a mettere in atto le fantasie, quindi va bene così. Vabbè, lasciamo che rimanga, diciamo, un desiderio, ecco. Esatto, esatto. Una cosa che... Allora, e quindi dopo questa digressione possiamo passare quindi ad ascoltare il prossimo brano musicale, che appunto è un brano dei Nomadi, un brano quindi di qualche anno fa, non so di che anno è, ma insomma c'ha qualche decennio, diciamo. E ci ritroviamo quindi fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati con Radio Alma, i colori dell'anima. Allora, eccoci ritornati in questa chiacchierata di Radio Alma, appunto a Radio Alma, con i colori dell'anima. Oh, e io adesso ti interrompo, perché i colori dell'anima? Allora, i colori dell'anima, dunque, abbiamo avuto già occasione di parlare dell'origine un po' di questa trasmissione, perché appunto, visto che stasera stiamo facendo così un breve excursus della radio, delle varie trasmissioni, perché i colori dell'anima? Allora, i colori dell'anima perché all'inizio, e ormai sono più di 3 anni, sono quasi 4 anni, Abbiamo pensato, insieme ad un gruppo di animatori che non c'è più, perché appunto nel frattempo per altri impegni ha dovuto lasciare la radio, Ruland e Donatella in particolare, ma anche insieme a Domenico, abbiamo pensato che volevamo parlare delle persone, delle esperienze di vita qui a Bruxelles e quindi raccontare i colori delle anime delle persone che attraversano questa città. Naturalmente, essendo noi italiani, ci piace parlare con le persone italiane e infatti quello che cerchiamo sempre di fare è di avere degli ospiti che magari ci raccontano la loro esperienza. E quindi i colori dell'anima, perché le nostre anime sono colorate, non sono sicuramente grigie, e se anche fossero grigie sono di un grigio perla, di un grigio bello, e ogni persona ha un suo colore o ama un suo colore, però insomma è proprio per descrivere le sfumature che caratterizzano l'animo umano. E poi, guarda caso, la parola anima la ritroviamo anche nel nome della radio, Alma, che appunto vuol dire anima. E quindi insomma da 3 anni e mezzo andiamo avanti con questa trasmissione. Ultimamente ci siamo poi organizzati, come sai benissimo, in 4 piccoli gruppi. Uno è questo, quindi Anna Maria e Rosanna. Poi c'è invece il gruppetto di Angelo, Carla e Giampaolo. C'è l'altro gruppetto di Cristina e Barbara e l'altro gruppetto più recente di Rossella, Tiziana e Leandro. Quindi, essendo 4 di gruppetti di 2 o 3 persone, ci alterniamo nel corso del mese e ogni lunedì viene uno di noi. Esatto, e vi teniamo compagnia. E come sempre, quando abbiamo degli ospiti, chiediamo all'ospite che interviene qual è secondo te il colore di questa serata, della trasmissione di oggi. Lo chiediamo a Francesco. Allora, poco fa, quando il microfono era a zero, tra di noi, diciamo, ci siamo fatti un piccolo scambio, diciamo, in privato. E il primo colore che mi è venuto in mente è il viola. Prima, perché lo indossa, diciamo, Anna, che sta qui in studio, e poi perché ha. Diciamo, noi in Italia siamo un po' abituati a pensare che il viola si addice molto ai defunti, ma in realtà per me è l'esatto opposto. Quindi anche per questo motivo qui, venendo qui dentro, magari mi ha ispirato, sai, la musica, il far divertire, il far pensare a qualcosa di positivo, mi è venuto subito in mente il viola e non ci ho pensato la seconda volta. E così deve essere, così deve essere, proprio quando noi lo chiediamo deve venire di getto, così almeno è sì, spontaneo. E quindi viola, e viola sia. Bene, quindi la trasmissione di questa sera è accompagnata dal colore viola. Beh, insomma, non è male, di solito finiamo sempre con rosso, con l'azzurro. Con questi colori blu, azzurro, insomma, un po' di variazione ce la vuole. Un po' di variazione, assolutamente. Allora, io dunque abbiamo già parlato della griglia oraria, abbiamo detto appunto che ci sono varie trasmissioni in varie lingue, lo ripetiamo, sono lo spagnolo, l'italiano naturalmente, il francese, il greco e il portoghese, e quindi comunque le informazioni ve le abbiamo già date in parte, ma una lista completa di tutte le informazioni le potete ritrovare quindi sul nostro sito radioalma.eu. Ma appunto nello stesso sito potete ritrovare anche il nostro blog. Com'è? radioalma.eu/icolori dell'anima. Sono stata brava. Bravissima. Poi magari, ecco, non sempre riusciamo a caricare la trasmissione immediatamente perché magari siamo presi da altri impegni, però insomma cerchiamo di farlo in modo tale che chi non ha la possibilità di ascoltarci attraverso la radio o attraverso internet, perché ci si può ascoltare anche, e questo lo dico anche a Jacopo e Francesco, quando tornate in Italia e volete ascoltarci, se voi andate sul sito della radio, quindi radioalma.eu, leggete sullo schermo, sulla pagina principale, direct. Sì, premendo. Ci sono dei bottoncini a sinistra. Sì. Beh, basta schiacciare lì e automaticamente parte la radio in diretta. Quindi questo lo dico perché appunto è possibile che voi ci ascoltiate da tutto il mondo e non solo, diciamo, da quella parte di Bruxelles dove invece arriviamo con le onde. Ma se qualora non ci aveste ascoltato, potete farlo successivamente andando appunto al nostro sito radioalma.eu/icolori dell'anima e lì quindi andando a cercare le varie trasmissioni vedrete che c'è anche quella di oggi, quindi di oggi 7 luglio, che quindi troverete però appunto fra qualche giorno. Allora, io proporrei un altro brano musicale, anzi no, prima di proporre il brano musicale, dove sei stata tu ultimamente, Anna Maria? Io sono stata un pochino in Italia, ogni tanto vado a prendere una boccata d'ossigeno a casa. Perché c'è una festa molto famosa, tra l'altro. Beh, famosa, non so se sia molto famosa, però sono già diversi anni che viene fatta. Sì, è l'infiorata di Castel Raimondo, sono i tappeti, i famosi tappeti di fiori. Castel Raimondo è un paesino piccolino, il mio paese d'origine è piccolino, sono più o meno 5.000 abitanti, però una volta all'anno, cioè in occasione del Corpus Domini, c'è una bellissima manifestazione che sono appunto i tappeti di fiori. È bellissimo, io consiglio a tutti di andare, di seguire se si può, perché è una bella esperienza personale, oltre è spettacolare. In realtà sono dei gruppi del paese, delle squadre del paese che preparano dei disegni bellissimi che poi ricostruiscono sulla strada del corso principale, quindi ricostruiscono delle immagini tutte di fiori. Non usano solo i fiori come fanno qui a Bruxelles, utilizzano anche altre cose, però sono tutte cose naturali, perciò può essere il caffè, i chicchi del caffè, può essere il riso, possono essere le spighe di grano. Sono bellissimi, ve li consiglio sinceramente. Anna Maria, sai cosa propongo? Che la nostra trasmissione sarà accompagnata da una foto. Bene. Di questa infiorata. Che ti fornirò con piacere, perché lì ci sono veramente tutti i colori. Sì. Anche il viola. Va bene. Allora, passiamo quindi ad un altro brano musicale. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi. E a fra pochissimi minuti dopo la canzone di Giorgia. Allora, eccoci ritornati alla fine della trasmissione di oggi, perché in realtà mancano una decina di minuti prima di salutarvi. Stiamo parlando di Radio Alma, vero Anna Maria? Sì, stiamo parlando della radio. Della radio, abbiamo un po' raccontato gli inizi, gli esordi di Rosanna, un po' la storia, abbiamo detto a grandi linee Che cosa rappresenta questa radio. A tal proposito volevo leggervi solo questo pezzettino che dice: qualsiasi cultura nasce dal miscuglio, dagli incontri o dagli scontri. Al contrario, è per via dell'isolamento che la civiltà muore. Questa cosa è stata scritta da Octavio Paz, è un poeta messicano. Vi dico la verità, non sapevo neanche io che esistesse prima, mi sono documentata, però l'ho trovata molto bella. E in effetti questa trasmissione ci ha costrette un po' a documentarci, no? Giusto? Sì, siamo molto più bravi e più colte adesso. No, questo per dire appunto che questa radio che appunto promuove le culture di ogni paese, proprio per permettere alle persone che non ci conoscono di conoscerci. È una bellissima iniziativa, trovo. E poi anche, non so, anche i nostri propri concittadini prendono coscienza della cultura che noi abbiamo. Perché tante volte siamo un pochino chiusi nel nostro paesino, nel nostro ambiente, nella nostra routine, e non prendiamo tempo per conoscere qualcosa di più delle persone che ci stanno semplicemente accanto. E quindi magari questa radio può, parliamo una volta del mio paese, una volta del tuo, una volta delle tradizioni di uno, una volta delle tradizioni di un altro, e così la cultura si espande e c'è questo miscuglio. È vero. E io, diciamo, ritornando un attimo indietro con la storia, appunto, quando al 95, quando ho cominciato a fare una trasmissione per Radio Sì, e quando quindi Radio Alma, che invece, come ha detto Anna Maria prima, esiste dal 78, però è stata riconosciuta come una radio di interesse pubblico dalla comunità francese, quindi del Belgio, nel 95, come dicevo, insieme a quest'altra radio che adesso non esiste più, Radio Sì. Ecco, io a questo proposito vorrei ricordare una persona che ha avuto un ruolo fondamentale, si chiama Bruno Ducoli, ed è una persona che appunto ha lavorato, un italiano che adesso vive in Italia, ma che ha lavorato proprio per in favore delle comunità italiane, ma non solo, delle comunità di tutti i paesi che si sono ritrovate qui a Bruxelles, per fare in modo che chi non è belga abbia una voce e possa farsi sentire. E tutto questo è stato fatto appunto grazie all'impegno di Bruno Ducoli, di Silvana Pancera, di Roberto Pozzo e di a molte altre persone che sono qui, hanno vissuto qui dagli inizi, dalla fine degli anni 60, e che hanno appunto aiutato, diciamo, gli italiani a integrarsi meglio nella comunità del Belgio. Quindi, insomma, mi fa piacere menzionarlo e ringraziarlo in questa circostanza. Tu, Anna Maria, ti ricordi qual è la prima radio libera che hai ascoltato quando eri piccola o che ascoltavi? No. No, perché quando ero piccola ero in un posto dove la radio non c'era. Ah, è vero, eri in Africa, è vero. Quindi io ero... Non c'erano radio in Africa. All'epoca non c'era la radio, non avevamo la TV. Noi abbiamo avuto la TV a casa, credo che io avessi 10 anni forse, ed erano le prime videocassette. Ah, mamma mia. E ricordo che mia sorella era piccolina e avevamo il libro della giungla, lo mandavamo non stop dalla mattina alla sera. Non vi stufavate? Lo so, a memoria. E tu, Francesco, ti ricordi la tua prima radio? Allora, avevo forse non più di 5 anni e sentivo già le trasmissioni della corrida, che a quel tempo non esisteva in televisione ma solo in radio. Già mi divertivo all'epoca in gran parte degli imitatori degli animali e quant'altro, quindi restavo veramente colpito da questa trasmissione, che faceva tra l'altro purtroppo una volta a settimana, e che quindi non potevo deliziare di trascorrere più tempo durante la settimana. E questa, mi ricordo, fu la cosa che, tra le prime cose che ho ascoltato, perché in radio non è che magari non mi ricordo, diciamo, della buona musica, però comunque questa era una cosa che mi ha fondamentalmente colpito e che ricordo sempre. Allora, io invece negli anni 70, diciamo dai miei 10 anni in poi, mi ricordo le prime radio libere che sono nate nella zona della provincia di Chieti dove vivevo, e tra queste una radio che si chiamava Radio Lanciano Abruzzo, che non so neanche se esista ancora, però era la prima esperienza di radio, cioè di persone che erano vicino casa tua e che quindi raccontavano i fatti che succedevano vicino casa tua. Queste radio, tra l'altro, avevano un sacco di musica, quindi, che ne so, magari il pomeriggio, mentre stavo studiando, se mi capitava di sentire la radio, smettevo di studiare e mi mettevo a ballare per conto mio. Ero un po' ridicola, penso, però insomma era talmente strana questa sensazione di avere una radio con voci di persone che abitavano vicino al tuo paesino. Insomma, mi faceva molto impressione, perché fino ad allora la radio e la televisione erano fatte di persone che erano lontane, invece con le radio libere, quindi le radio vicino casa tua, avevi quasi la sensazione che anche tu eri parte di queste radio. E poi c'erano le famose dediche, perché ogni canzone era dedicata. Quindi c'era, che ne so, Concetta che dedicava la canzone di Lucio Battisti a Claudio con tanto amore. Senti, ma dici la verità, qualche dedica l'hai ricevuta anche tu? Allora, credo di no, ma ti dirò di più. Non ci credo. Ai miei 16 anni andai una sera in discoteca con mia sorella e il fidanzato, perché naturalmente io da sola non ci sarei mai andata, perché non mi avrebbero mandato i miei genitori. E tornando, quella sera in radio conobbi un ragazzo che si chiamava Claudio, un bel ragazzo tra l'altro. E questo ragazzo mi dice, io parlo, non mi ricordo se era Radio Lanciano Abruzzo o un'altra radio, parlo in questa radio, domani ascoltala perché ti faccio sicuramente una dedica. Allora, io sono andata a dormire tipo alle 4, perché era la notte di Capodanno. Io penso che mi sarò alzata tipo alle 7 per ascoltare questa dedica. Oh, niente, nessuna dedica, ci sono rimasta malissimo. È andata tutto il giorno la musica non stop. Pensa, che delusione. Ci credo. Quindi ci credo. Dovrei dire, da allora adesso non avrei più dovuto ascoltare le radio. Questo Claudio, non so se ci ascolta, non se penso. Credo che... Ma lo devo mandare da qualche parte. Esatto. Credo che come gran parte di chi ha trascorso la nottata del fine anno non si sarà proprio svegliato quella mattina per andare in radio. Quindi probabile. Questo potrebbe essere il motivo. Diamogliela una scusa. E non ha avuto più un modo di giustificarsi. E poi lo hanno licenziato. Per buona. Magari, perché questa è una cosa a cui non si può, si fa una promessa, va mantenuta. Esattamente. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, io vorrei salutare le persone che sono state qua in studio e comincerei con il mio assistente regista. Buonasera. Allora, non avete sentito molto la sua voce, ma vi assicuro che è stato molto attivo in regia, anche se avete sentito qualche rumore strano, non ero io, era lui, vero Jacopo? Sì. Va bene, quindi grazie a Jacopo per l'assistenza alla regia, poi saluto anche Francesco. Io saluto voi e ringrazio ovviamente per questa piccola occasione a me concessa. Va bene, allora facciamo che quando ritorni in Belgio facciamo in modo tale che tu venga di nuovo di lunedì, un lunedì in cui veniamo in onda Anna Maria ed io, così sei di nuovo ospite e ci racconti qualcos'altro. Qualche aggiornamento. Benissimo. Va bene. Certo, lo farò. Grazie. E naturalmente ringrazio Anna Maria. Grazie a te Rosanna, grazie a tutti. E auguriamo buone vacanze. Eh sì, finalmente ci siamo, arrivano le vacanze, buone vacanze a tutti, qualcuno è già in vacanza forse, ma buone vacanze a chi deve ancora partire. Noi ci ritroviamo a partire dal primo lunedì di settembre, adesso non ricordo che giorno è, ma è quasi certo che il primo lunedì di settembre ci saremo tu ed io. Noi. E finiamo invece... e iniziamo. Come? Finiamo noi e iniziamo noi. Infatti, no, ma adesso durante il mese di luglio ci saranno ancora i nostri altri colleghi durante gli altri lunedì, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati con noi sempre, ma in particolare il lunedì dalle 21 alle 22 con I Colori dell'Anima. E buona serata a tutti. Ciao buona Anna Maria. Serata. Ciao Rosanna. Ciao.